Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 21. De Orbis Status. Dai rapporti a Sua Santità il Pontefice. Nessun episodio violento in seguito allo smantellamento delle frontiere, anche se si registrano diffusi disagi dovuti all'enorme quantità di gente che migra. Le popolazioni locali reagiscono accogliendo i profughi e aiutandoli a proseguire il loro viaggio o a trovare una sistemazione in loco. Si calcola che il numero di suicidi tra la popolazione mondiale sia salito del 450% nelle ultime settimane. Se la tendenza dovesse continuare, la percentuale annua salirà dallo 0,014 al 6,42%. Si registra una parallela diminuzione di crimini violenti e omicidi del 98%. Nascono spontanei numerosi nuovi ordini religiosi devoti al senza nome. Alcuni sono formati da poche persone, altri sono già arrivati a diverse centinaia di fedeli. Incremento non calcolabile per mancanza di dati precedenti. Mancanza di dati più precisi per ciò che riguarda intenti e programmi. Una singolarità. Tutti gli ordini fin qui censiti hanno adottato abiti di color bianco. Le grandi e medie città sono ormai spopolate. I gruppi di persone si riuniscono spontaneamente in collettività eterogenee, spinte prevalentemente da interessi e sentimenti affini, che non contano più di qualche migliaio di membri. Quando le comunità raggiungono un certo numero di persone, si dividono spontaneamente come cellule, allo stesso modo di quello che avviene nei processi biologici. Tra loro si definiscono grandi famiglie, nonostante non necessariamente vi siano preesistenti legami parentali biologici. Il ricollocamento in campo agricolo delle risorse precedentemente destinate agli armamenti sta facendo rinascere vaste aree degradate o desertiche. Si stima che la produzione mondiale di derrate alimentari avrà un incremento del 500% nel primo anno. Le trasmissioni radiotelevisive, i media tradizionali e i nuovi media telematici stanno capillarmente diffondendo la conoscenza della lingua inglese, grazie anche all'uso pedagogico di sistemi di apprendimento graduali. La necessità di comunicare con persone di altre lingue dovuta agli spostamenti sul territorio stimola lo spontaneo adeguamento al nuovo linguaggio verbale. Il pontefice, seduto allo scrittoio del suo studio di Castel Gandolfo, leggeva corrucciato i dispacci dei suoi emissari ai quattro angoli del globo. Tutti i cambiamenti che stavano avvenendo sembravano rispondere ai desideri del senza nome. Per questo motivo Sua Santità non riusciva a capire la puntura di disappunto, quel vago senso di disagio che lo coglieva mentre esaminava i rapporti. Nelle parole e nelle azioni del senza nome non vi era traccia di tutto quello che aveva permeato la sua vita fino a lasciargli impressa nel profondo una forma indelebile, fino a sagomare l'essenza stessa della sua anima. Non capiva. Dove erano le parole che avevano guidato il suo percorso di vita? Quelle parole a lungo meditate e assorbite in ore e ore di letture e preghiere. Perché il senza nome non aveva detto una parola contro i gay o il divorzio? Si era dimenticato della sacralità della famiglia? Che fine aveva fatto la morale? Aveva passato notti insonni cercando di capire il senso dei nuovi comandamenti. Specialmente il sesto lo aveva turbato nell'intimo fino al suono della campana che annunciava la messa delle 8:30. Aveva celebrato la messa in privato nella sua camera senza avere chiuso occhio, senza potere distogliere il pensiero dal frugare nei suoi dubbi. Come era possibile che non esistessero paradiso o inferno? La sua intima essenza si ribellava a una simile prospettiva. Per il suo peccato di superbia faceva penitenze e recitava preghiere, benché negli ultimi giorni tutto gli sembrasse così incomprensibile che spesso, sfinito, si addormentava inginocchiato con il rosario in mano. Avrebbe voluto chiedere spiegazioni al senza nome, ma ogni volta che si trovava in sua presenza era come scivolare indietro nel tempo, fino a ritrovarsi chierichetto in Baviera, affascinato dal mistero, ma troppo intimorito per osare parlare o fare domande. Ma non era più un chierichetto e dovette interrompere la lettura dei rapporti. Non riusciva più a leggere con serenità. I suoi dubbi lo irritavano e non comprendeva se il bersaglio della sua irritazione fosse la sua inadeguatezza a comprendere il disegno divino o le parole e azioni del senza nome. Aveva inoltre la netta sensazione che quando il Dio gli parlava si rivolgesse a lui con scherno. Perché trattava il suo umile servo con sufficienza e derisione? Benché gli effetti del nuovo avvento sul mondo sembrassero avere risolto molti dei problemi che affliggevano l'umanità da sempre, lo schema complessivo del piano di Dio gli sfuggiva. Voleva e doveva comprendere il motivo del suo disagio. Non poteva rimanere oltre.